Ad alta voce, Valerio Binasco legge Il compagno di Cesare Pavese, ottava puntata. Suonavo di gusto perché adesso era giorno e nel momento che avrei smesso la chitarra qualcosa finiva. Non sarei più tornato indietro. Dovevo aspettarmelo che Linda, appena soli, avrebbe detto: che cos'hai? Tante bugie ci eravamo raccontate, tante cose avevamo taciute, anche stavolta dissi niente. Lei mi disse: sei pazzo. Si sedette sul letto e si tolse il cappello. Dammi un bacio, mi disse. Le diedi un bacio sulla faccia e ci prendemmo le mani. Era come baciare una pianta. Ero sicuro anche stavolta che ci stava volentieri. Era sempre la stessa, con la sciarpa slacciata, mi guardava, delusa e contenta. Sono stanca, mi disse, vado a letto. Si mise a letto. Io mi alzai passeggiando. Voglio fumare, disse, senza parlare, accesi a me e poi gliela diedi. Sai, mi fece, ha il suo bello anche questo. Fosse possibile essere sempre buoni amici e quando capita qualcosa che uno è stanco e non ha voglia di baciare, di scorrere insieme e magari star zitti e aiutarsi così. Io non risposi e la guardavo. Che cos'hai? Vuoi uccidermi? Disse. Sai che forse mi sposo? Non mi chiedi con chi? Io non capivo perché, invece di gridare e litigare, avrei voluto essere sotto, essere in strada. Mentre lei discorreva, pensavo che ieri, prima di entrare al mascherino, ero stato, per qualche momento, felice. Mi batte il cuore, disse Linda, perché so che ci soffri. Senti, e mi prese una mano e se la mise sulla pelle. Toccai quel calore e stringevo le dita, poi strinsi ancora e lei gridò. Si mise a ridere. Non parli e mi maltratti, disse piano. Non sono mica la chitarra. Quando scesi le scale era notte alta e pensai che potevo dormire. Feci un pezzo di tram con la testa appoggiata al finestrino. Chiudevo gli occhi, mi assopivo. Avevo in mente quei mattini che ero rientrato a prima luce. L'indomani mi rimisi con Milo e partimmo per Genova. Era un trasporto con rimorchio, più difficile. Il meccanico fu contento di darmi il suo posto e metà la condotta. Rimasi a Torino. Era l'unico modo che potessi ancora vivere. Quando uscimmo di Barriera fui quasi contento. Milo a Genova aveva una ragazza e passò a salutarla. Io restai solo, in quelle strade, e girai fino a notte. C'era un vento che screpolava le labbra e adesso sì, l'odore del mare si sentiva. Faceva scuro ed ondolavano i lampioni sulle viuzze. In sostanza l'odore del mare era come Torino quando in montagna ha nevicato e fa sereno. Davo dei morsi in quell'odore, come un cane, e cercavo il terrazzo dove ero stato con Linda, l'osteria di allora. Linda l'avevo nella pelle come il sangue, ma il mare lo vidi da un altro terrazzo. Nel ritorno, l'idea che rientravo a Torino mi tenne occupato. Appoggiavo la testa al tramezzo e cercavo di dormire. Mi sembrava di vivere in mezzo a un pericolo, a qualcosa di già capitato e deciso. È tutto già capitato, dicevo. E son qui. Milo mi disse: quando attacchi fai più piano. Se mi scassi la leva restiamo per strada. Poi riprese a parlare di quella ragazza di Genova. Passai così diversi giorni all'osteria e sopra i camion. Bevevo, correvo, dormivo a casaccio. Entravo in casa solamente per pigliare sigarette. Mia madre disse: non ti cambi la camicia? Mi ero messo un maglione con sopra la tuta. Vado a Biella, le dissi, non mi conosce nessuno. Seppi che Amelio era da un pezzo andato via da casa sua. Avevano preso un pianterreno e un negozietto chissà dove. Proprio adesso che tutto è finito, dicevo. Ma mi fece piacere non saper dove stava. Pensavo a Linda che sapeva dove stavo e passava ogni sera nel solito bar. Ma Carletto lo posso vedere, mi dissi una sera. Passai davanti al bar di Linda e di Lubrani, passai davanti alle vetrine di una sarta. L'ultima volta che ero andato per quei porti c'ero ancora con Linda. Alzai gli occhi alla Torre Littoria, mi ricordai di quando uscivo dal portone di Linda e vedevo la torre attraverso la piazza. Magari anche lei ci pensava, passando. Al mascherino non trovai nessuno se non quel vecchio Carlandrea e le ragazze. Il cameriere non mi seppe dar notizie. Allora andai fino al teatro e non sapevo cosa fare e cominciavo a disperarmi. Guardavo svogliato le foto di quelle ragazze incollate ai cartelli, quante volte le avevo vedute passando. Ed ecco che vedo Carletto, la foto di lui, quella in nero, elegante, piegato in avanti, che rideva. Ce l'ha fatta, pensai, meno male. Ma mi sembrò di aver perduto qualche cosa e mi dispiacque, perché adesso anche lui lavorava per l'altro. Stetti un poco davanti al teatro. Se non faccio qualcosa, pensavo, comincio a correre le strade a parlare da solo. Avevo un gatto dentro il sangue che graffiava. Allora chiesi alla cassiera quando finiva lo spettacolo. Anche questa lavora per l'altro, pensavo. Non gli bastano i corpi di ballo. La cassiera mi disse che potevo aspettare perché uscivano dalla porta d'ingresso. Allora entrai nel mascherino e mi sedetti a una vetrina scura scura. Anche aspettare e far qualcosa. Per calmarmi bevetti del vino. Poca gente passava su e giù davanti all'ingresso. D'un tratto vidi nella luce Carletto con altri. S'erano fermati a far discorso, poi comparvero. Linda e Lubrani traversarono la strada tutti quanti. S'erano accesi in quel momento i lampadari. Chi mi vide fu Linda e parlò con Carletto. Gli fece un cenno con la mano e non si mosse. Io stavo per andare via quando Carletto mi tagliò la strada. «Le signore ti aspettano», disse. Era vestito in giacca nera e spettinato. «Chi si vede?» gli dissi. «Hai fatto pace col padrone?» «Sai com'è», mi rispose. «Non vieni?» Io lo feci sedere e gli offersi del vino. «Quando è che facciamo una festa noi due? Ho una chitarra che non suona più da mesi. Vieni a prendermi un giorno all'uscita», disse lui. «Ah, Carletto, Carletto, basta poco a calmarti. Com'è che non sogni più i gatti?» In quel momento arrivò Linda e mi chiese perché trattenevo Carletto. «Non trattengo nessuno». Suonò l'orchestra e lei si alzò e mi disse: «Balli». Ballando cercava di farmi parlare. «Che ti piglia?» diceva. «Io ti ho aspettato tante volte in questi giorni. Tu non mi hai mai voluto bene. E questo è il fatto». Gliene dissi di tutti i colori. Lei stava a sentire. «Pablo», mi fece, «vuoi che usciamo noi due soli?» Quante cose mi disse, lassù, abbracciati. «Mi hai trattata come fossi una serva», mi disse. «Io ho dovuto aspettarti, io parlarti». Giravo sempre, giorno e notte. Non volevo pensarci mai più. «Vedi bene che è inutile», disse. «Sei qui». «Me ne andrò un'altra volta». «Sei cattivo», diceva. «Non le puoi dire queste cose». «Sta zitta», dicevo. «Sta zitta. Tu mi vuoi bene, ma non sei mio amico». «Non è meglio essere qui noi due soli», le dissi. «Voglio te, sola, nessun altro». «Vorrei vedere lo volessi», disse, ridendomi all'orecchio. Poi le chiesi un'ultima volta che vivesse con me. «Ti perdono», le dissi. «Ti prendo. Come sei? Da stanotte cominciamo», mi rispose nel buio che voleva provare. Scendemmo insieme l'indomani nel caffè. Mentre beveva il cappuccino mi guardò, disse: «Pablo, ritorni stasera?» «Non me ne vado tutto il giorno». «È impossibile, Pablo, devo salire a lavorare. Tu, quest'oggi, che cosa farai?» Così alla sera andammo insieme al paradiso e tutto fu come una volta. «Certi giorni», mi disse, «sei proprio impossibile. Non capisci che ognuno è una cosa diversa e che quello che faccio riguarda me sola. Tu non hai degli amici?» «Li ho piantati, come hai fatto con me. Ma non serve. Con ognuno è una cosa diversa. C'è il suo bello con tutti». Mentre parlava mi ero accorto di essere solo. Me ne accorsi di colpo e fui quasi felice. Sapere che dopo essere stato lassù nel suo letto avrei disceso quella scala e camminato, attraversato Torino e dormito da solo mi diede un urto come un sorso di liquore. Non mi importò più di nient'altro e dissi adagio: «Hai ragione anche tu». Linda mi prese le mani contenta. Stemmo insieme la notte. L'indomani era inteso che viaggiavo con Milo e sapere che Linda mi avrebbe aspettato era più bello che dormire con lei. Era questa la vita di Amelio. Traversando la piazza nel buio, fui felice. Qualche volta quelle sere vedemmo Carletto. Noi si cenava al mascherino come prima e senza esserci data parola uscivamo sul presto per non fare le notti di un tempo. Ma Carletto non era un ingombro, se la rideva qualche volta a vederci arrivare e si alzava e scostava la sedia per Linda. Veniva sempre al paradiso a cercare Lili. Una sera ci disse: domani ritorna la Torre Littoria. Io non sapevo che Lubrani fosse fuori. Vidi Linda arrossire e piantargli gli occhiacci. Ecco, dissi, arrossisce. Non l'avevo mai vista arrossire. D'improvviso capii che Lubrani era fuori da quel giorno che Linda mi aveva ripreso. Linda gli disse: cosa credi di aver detto? E Carletto: qualcuno ha finito di star bene. Vidi Lili toccargli il braccio e dirgli: smettila. Lui divenne cattivo, ce l'aveva proprio con Linda. Mi fa rabbia che tratti così, disse brutto. Mi fa rabbia che trovi qualcuno che ti crede ancora. Sai benissimo quel che sei, ma non parli. Siete tutte le stesse, anche questa, anche tu. Voi la carriera non la fate in palcoscenico. Mentre Lili si disperava, Linda non disse una parola. Lo guardava parlare calma calma, ridendo, poi gli prese il bicchiere e fissandolo sempre, sorseggiò un po' di vino. Glielo rese. Carletto le fece un inchino. Scoppiarono a ridere. Io di quel fatto non parlai con Linda. Quando tornammo verso casa andava zitta, preoccupata, finì che disse: quell'idiota. Forse Lili l'ha maltrattato, dissi appena. Ci fermammo al portone. Così domani torna lui? Le chiesi. Lei mi guardava sotto sotto e disse: ma? Ci vediamo la sera? Sicuro. Fui contento di andarmene a casa. L'indomani suonai tutto il mattino, studiai di voglia e stavo bene nella stanza. Dalla stufa veniva l'odore di brodo. A mezzodì passò il meccanico di Milo che comprava il suo Toscano e parlò di politica. I discorsi di Amelio, pensavo io, li porta il mestiere. Ce l'aveva con quelli che mangiano i soldi del popolo e han bisogno che non si protesti per poter digerire. Ma stavolta la pignatta è andata per fuoco, diceva. Se ne accorgono in Spagna, non so se mi spiego. Solo i fascisti mangiano? Gli dissi. È la cucina che è fascista, disse lui. Non c'è bisogno di portare la camicia. Io adesso sapevo cos'era Linda per me. Mi bastava pensare a Lili per capirlo. A Lili, che con tutti ci stava e pensava soltanto alle scarpe da ballo. Sarebbe stato così facile pigliarla e innamorarla. Sarebbe stato come un gioco. Non entrava nel sangue a nessuno, Lili. Senza nemmeno dirmi grazie, Linda si mise con Lubrani. Mi fece dire al mascherino che doveva lavorare. Andai la sera al suo portone, la cercai, lei non c'era. La cercai l'indomani nel grande atelier, le ragazze ridevano. Mi parlò in un salotto, irritata. Ne ho abbastanza, diceva. Poi se ne andò. Poi ritornò dentro il salotto. Non capisci che qui lavoriamo, mi disse. Si lasciò prendere le mani, restò ancora un momento. Ci vediamo stasera se posso. Io quella sera andai con Milo a Moncalieri. Mi portai la chitarra. Ci chiudemmo da un oste. Niente ragazze, dissi a Milo, non ne bevo. A mezzanotte dalla strada una bussò nella finestra. Volevano entrare a sentir la chitarra. Pigliati guardia, dissi a Milo. Non sei storpio né gobbo, mi disse. Perché? Pigliati guardia. Ero ubriaco. Allora Milo guardò fuori e disse: aspetta. E ritornò dopo mezz'ora che parlava da solo. Come Amelio, dicevo. Mi ha fatto fuori come Amelio. Milo mi disse: c'è una bionda che ti cerca. Mi portò in un boschetto di foglie marce. La bionda aspettava appoggiata a una pianta. Si scivolava sulle foglie e quella disse: state dritti. Non faceva un gran freddo e mi appoggiai contro la scorza. Milo gridò: trattalo bene. Fece tutto la bionda. Fu lei che mi chiuse il paltò. Quando Milo mi spinse sul tram non parlavo. E domani si parte, mi disse. Tu guidi. Per un mese fui sempre ubriaco. come Amelio, pensavo, mi ha fatto fuori come Amelio. Avevo in mente che bevendo mi sarei voltato il sangue. All'idea che finita una sbronza pensavo già all'altra, mi veniva da piangere. Milo mi disse: fatti furbo. E le giornate s'allungavano, stare ubriaco tutto il tempo era fatica. Siamo in marzo, mi disse, si lavora di gusto, tu cos'hai per la testa? Io non parlavo e lo seguivo a denti stretti. In quel mese viaggiammo a Biella e Novara, tornammo a Casale, non so quel che feci. Mi rimase soltanto che rincasavo la mattina, che dormivo al caffè, che correvo sopra il camion. Una volta saltai su una ruota già in marcia e caddi a terra sull'asfalto e mi sembrò di essermi ucciso. Fu come un pugno in mezzo agli occhi e per un attimo credetti di guarire. Milo gridava e mi chiamava. Io gli feci una faccia da scemo e dicevo felice: non ero ubriaco, sto bene così. Mi ricordo che in tutto quel tempo mangiai come un lupo. Mangiavo in casa, mangiavo sul camion, mangiavo a Casale, Novara. Solamente mangiando quel male s'assopiva. Ma così mi facevo più sangue e soffrivo di più. Tutte le forze le mettevo in quel far sangue. Milo diceva che dovevo dare l'esame di patente e diventare camionista. Non volli saperne. Guadagnavo qualcosa così, di straforo. L'officina l'avevo disertata, non avevo fermezza per fare di più. Nel caffè degli autisti giocavo tutte le notti, se non era la chitarra era il 3-7. Giocai secco e ci persi dei soldi. Anche in questo, per riuscire, ci voleva passione. Io pensavo a tutt'altro, andai piano. Milo diceva: tu hai un vizio, non porti le cose alla fine. Ma le cose succedono loro. Carletto non era partito. Una sera di marzo mi sento chiamare per strada. Non aveva il paltò. L'ho venduto, mi disse, sono di nuovo al pian terreno. E tu perché non mi saluti? Camminando e parlando s'arrivò al mascherino. Quando s'accorse che io volevo tirar dritto, disse col solito sogghigno: sta tranquillo, non ci viene nessuno da un pezzo. Entrammo dentro. Tu sei stato all'ospedale? Magari, mi fece, ma non prendono gente che mangia. Io pensavo, chissà chi sta peggio dei due. E gli diedi una cicca e toccavo se avessi una faccia così. Mai più visto nessuno, mi chiese. Nessuno. Feci venire un uovo al burro e glielo offrii. Tu non mangi? Mi disse. Una volta mangiavi. Quella sera mi prese una brutta allegria. Era Carletto che mi aveva aperto gli occhi. Mangiai con lui, lo feci bere, ci toccammo la gobba. Sono contento che l'Ubrani te l'ha fatta, gli dicevo. E pensare che a Roma Dorina mi aspetta, mi disse. Là si mangia. Sei sicuro che aspetta? Non si sa mai, disse ridendo. Non si sa. Da quella sera ci vedemmo qualche volta. Carletto dormiva in un buco nel teatro col custode notturno. L'Ubrani mi passa l'alloggio, mi disse. Ecco una cosa che Lili non ha mai fatto. L'hai più vista? Ho venduto il paltò. Mantenerlo così mi sfogava. Andavamo a mangiare e pagavo. Mi pareva di averci una donna. I primi soldi che guadagni gli dicevo: tu prendi il treno e scappi a Roma. Mi dispiace. Se torno a Roma ti ripago. Scemo, chi parla di pagare? Tanto fece che venne a trovarmi in negozio. Carlottina lo prese in disgrazia, lo guardava inferocita. Lui le disse: chissà se cantassimo insieme. Volle vedere la chitarra e la provò. Facciamo un trio, noi cantiamo e Pablo suona. Giriamo le piazze e lei sporge il cappello. La seccò per un pezzo e Carlottina brontolava, stava per dirgli brutto gobbo. Allora presi la chitarra e uscii con lui.